Con Francesco Bettini, direttore artistico di questa nuova edizione 2020 del Bologna Jazz Festival. Beh, un'edizione particolare, direi. È particolare perché, per esempio, in febbraio era già pronta l'edizione 2020 ed era completamente diversa, cioè era intrisa ovviamente di contenuti musicali provenienti dall'oltreoceano, come è un po' la nostra tradizione, e addirittura anche larghi organici. Dico uno su tutti, doveva venire la big band di Christian McBride ad aprire le danze, e sarebbe stato tipo tra una settimana, e poi è chiaro, è cambiato tutto e l'abbiamo montato, smontato, rimontato il palinsesto, fino a che a un certo punto ci siamo chiaramente resi conto che le tournée e la mobilità, non solo transoceanica, anche attualmente tra Stato e Stato in Europa, avrebbe rappresentato grandi problematiche. E quindi abbiamo puntato tutto su un palinsesto costituito con un fortissimo, forte trazione italiana, quindi musicisti che comunque proprio in termini di mobilità potevamo riuscire a garantire. Ovviamente tanti di coloro che abbiamo chiamato sono o dei musicisti di nomi fortemente radicati sul territorio o che hanno una caratura internazionale a loro volta, cioè il fatto che siano italiani non significa che siano meno bravi e meno interessanti dal punto di vista progettuale o strumentistico. E quindi cominciamo con il concerto del 30 di ottobre, c'è una piccola preview di Cosmic Music, chiamiamola così, con The Comet is Coming al Teatro Manzoni il 22 e il 24 al Torino di Ferrara con Gianluca Petrella, Cosmic Renaissance, e poi comincia l'insesto continuativo vero e proprio, che dal 30 di ottobre va fino al 15 di novembre, e che il 30 al Teatro Duse presenta un omaggio a una delle figure fondamentali dello scorso secolo del jazz in assoluto, che è Charlie Parker, che verrà ricordato da tre alto sassofonisti accompagnati da sezioni ritmiche. Si tratta di Cigalini, Francesco Caffiso e Jesse Davis, con il trio di Andrea Pozza alle sue spalle, che è un po' una versione, diciamo, rimescolata di quello che avevamo già previsto di fare con Gary Barth, Jesse Davis, che fortunatamente vive a Verona, e poi l'altro sassofonista che aspetta quello che con un altro nome di eccellenza del jazz statunitense. Quindi abbiamo tenuto fede, diciamo, a un impegno che ci eravamo presi, ovviamente rimodulandolo su quelle che erano le possibilità in termini appunto di mobilità, ripeto. Poi il 6 di novembre ci sarà un omaggio a una figura invece fondamentale per il territorio di Bologna, un musicista americano che ha vissuto 20 anni e forse qualcosa di più in questo territorio ed è stato mentore di tanti sassofonisti e di tanti musicisti, che si ritrovano al Teatro Manzoni per ricordarlo, perché purtroppo Steve Grossman è mancato qualche mese fa, era rientrato negli Stati Uniti all'età di 69 anni, anche insomma in ragione di una vita veramente jazz, non è più con noi, e tutti hanno aderito con grande partecipazione a questa iniziativa. Quindi ci sono, diciamo, tre gruppi più un finalone da Jazz at the Philharmonic, guidati da Piero Dorici, da Carlo Atti e da Valerio Pontrandolfo, che sono rispettivamente tre dei musicisti con cui Steve ha avuto rapporti non solo musicali ma anche di vita, insomma, di vissuto. E il tutto si conclude, e mi riferisco solo ai tre concerti in teatro in abbonamento, con un progetto originale di Paolo Fresu dedicato alla figura di David Bowie, insieme a Gianluca Petrella, Petra Magoni, Christian Meyer, Francesco Diorati, Francesco Ponticelli, insomma una specie di all star del jazz italiano in una versione sicuramente un po' più rock e anche pop. E anche pop, sì, a suo modo, sempre al Teatro Manzoni, in questo caso col doppio turno, perché le capienze non ci permettono, cioè desideriamo insomma accontentare tutti, per cui se attualmente rimarranno sulla base delle disposizioni della regione capienze a scacchiera, chiamiamole così, il Duse dovrebbe fare sulle 500 presenze, il Manzoni sui 450, e il doppio turno al Manzoni garantirebbe la possibilità di avere un pubblico fino a circa 900 persone. E per questa ragione, visto che Paolo ha un grande appeal sul pubblico non solo del jazz ma anche generalista, e il progetto in sé ne conferma appunto questa direzione, e speriamo di accontentare tutti con questo doppio turno.